E benvenute, benvenuti a tutte e a tutti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima, questa è Libera Scienza e Libero Stato, la trasmissione di lunedì 4 aprile, giusto? È 4 aprile e cominciamo una nuova puntata come ogni lunedì. Questa settimana c'è una dedica iniziale che dobbiamo fare assolutamente della puntata, perché due settimane fa la comunità sanlorenzina è stata scossa tantissimo da una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Infatti un nostro amico, compagno, fratello Andrea Dorno ci ha lasciato improvvisamente, un compagno di comunia, un cestista, un atleta dell'Atletico San Lorenzo, il capitano della squadra di basket e anche molto attivo nel Cinema Palazzo, praticamente una persona di quelle che quando c'è da mettere la ciccia, come dicono gli assalti frontali, ci sta sempre, sta in mille lotte e in mille cose. Quindi è stata una mancanza che ci ha lasciato tutti quanti attoniti e senza parole. È stata una settimana molto faticosa quella di due settimane fa e alla fine l'ultimo giorno ci siamo ritrovati tutti quanti al campo del Scalo Playground, al campo di basket che gli verrà intitolato ad Andrea, e a raccontare in una cerimonia larga per la strada. Ognuno ha raccontato un pezzetto. Abbiamo scoperto così che Andrea amava tanto, io questo non lo sapevo, amava tanto l'oceano, gli sarebbe tanto piaciuto andare in oceano, e forse sull'oceano, a vedere l'oceano, lui che veniva dalla Puglia, quindi era insomma uno marittimo con un contatto col mare molto forte, e amava e stava programmando, se non sbaglio, per questo fine mese un viaggio proprio nell'oceano, doveva partire con la muta, hanno raccontato addirittura, con la muta sull'aereo, insomma hanno raccontato questo aneddoto così. Allora ci è venuto spontaneo, visto che oggi parliamo proprio di oceano in qualche modo, anche se di oceani sconosciuti, di oceani lontani, dedicare l'intera puntata ad Andrea Dorno, che, come dice la canzone, il coro che cantiamo da una settimana in tutte le partite dell'Atletico, in tutte le cose, Dorno vive con noi, e quindi ce lo portiamo un po' pure oggi lontano, quindi ce lo ricorderemo per tutta la vita, per sempre, questo compagno giovane pieno di energia che purtroppo resta giovane nei nostri ricordi. Chi era più grande, chi era più giovane, avevamo tutta la comunità di San Lorenzo, è stata molto molto presa e tuttora un motivo di dolore. Insomma, oggi quindi andiamo a parlare di oceani e di continenti veramente poco conosciuti, no? Giustamente, qui abbiamo degli ospiti, abbiamo il comandante Jacopo che ci accompagna. Comunque, prima di affrontare, facciamo un po' di inquadramento. Io mi sono preparato la solita introduzione molto, molto rapida, perché in realtà molti ascoltatori magari non, per inquadrare almeno dove siamo, no? L'Antartide spesso è quel pezzetto bianco che sta in fondo ai planisferi, che vediamo da quando siamo piccoli, no? Nella striscietta bianca in fondo al planisfero, alle carte geografiche. E più di recente ne abbiamo sentito parlare un po', i più grandi forse per il buco dell'ozono, e qualcuno mo per il riscaldamento climatico globale, altrimenti i pinguini, non lo so, altrimenti non è che si parla tanto dell'Antartide. Però in realtà l'Antartide è un continente enorme, misterioso, ed è stato, la porzione emersa è grossa come due volte l'Australia quasi, quindi è gigantesco, e che per secoli è stato sconosciuto, era relegato, no? Scoperto negli anni, nel 400-600 c'era qualche mito sull'Antartide, però soltanto all'inizio dell'Ottocento è cominciata, diciamo, un primo contatto, no? I balenieri, le cose, soltanto all'inizio del Novecento, nel 1911 mi pare, sì, nel 1911 è stato raggiunto il Polo Sud, che occupa la regione appunto del Polo Sud, da Amundsen e da Scott, che addirittura è morto nell'impresa. Spesso l'Antartide, fino diciamo agli anni Ottanta, è stato relegato a delle storie, no, fantastiche, di esploratori che restavano bloccati nei ghiacci, Shackleton, insomma, più che altro era una terra d'avventura, una terra di sconosciuta. Ovviamente non possiamo parlarne oggi, potremmo dedicare un intero ciclo di Libera Scienza e Libero Stato, caro comandante, in futuro, a questo continente misterioso. Accenderemo soltanto ad alcuni aspetti, in particolare a delle ricerche scientifiche. Ci faremo guidare anche dal nostro ospite, che grazie a lui, al quale siamo tornati a parlare di cose veramente di cui io personalmente non parlavo da 20 anni, geodinamica, di ricerca scientifica. Comunque, giusto per un inquadramento, quando parliamo di Antartide si parla di tutto quello, di regione Antartica, tutto quello che viene convenzionalmente posto a sud del 52° parallelo sud. Tutto quello che sta sotto, oceano e terre emerse, è considerato, diciamo, regione antartica, e si parla insomma di il confine è posto in mare, in una fascia di alcuni chilometri di ampiezza, dove vengono a contatto le acque fredde degli oceani, le acque fredde circumpolari intorno all'Antartide, o le acque degli altri oceani. Infatti c'è una corrente circolare che circonda l'Antartico che lo tiene in isolamento termico. L'Antartico quindi è il continente più isolato della Terra, ed è confinato la parte continentale su oltre il 60° parallelo. Secondo varie letture, lì dentro ci stanno congelati o i tre quarti o il 70%, l'80% dell'acqua dolce dell'intero pianeta. Sta tutto lì e un po' in Groenlandia, sono le giganti calotte glaciali in cui stanno relegate le acque dolci del pianeta. Ed è molto importante osservarlo, in quanto se ne è parlato tanto della velocità di deglaciazione in questo momento di apparente riscaldamento climatico. In realtà negli articoli, è curioso, no? Leggendo un po' d'articoli recenti, articoli di 20 anni fa, dicevano non si sa bene se il ghiaccio sta aumentando o diminuendo, se la calotta sta... In realtà adesso sembra che ci siano indizi chiari del fatto che stia diminuendo la quantità di ghiaccio lì. Comunque la grande calotta antartica è fatta da due grandi parti, quella occidentale, diciamo quella più verso, se vogliamo, verso l'America del Sud, e quella orientale. Quelle sono enormi, quella raggiungono spessori di 2.500-3.000 metri, fino a 4.500 metri in alcune zone, e se uno andasse a verificare i milioni di metri, di chilometri cubi di ghiaccio, non ci avrebbe abbastanza capacità di visualizzarli, no? Si parla di tutta la calotta glaciale antartica di 30 milioni di chilometri cubi di ghiaccio, quindi qualcosa di gigantesco, assolutamente non immaginabile, no? Da una mente normale, almeno quanto sono grossi. È diviso in due regioni, una parte geologicamente è più antica, la parte orientale fa parte è un nucleo continentale, poi forse ne parliamo dopo, un nucleo di un continente antico, un nucleo cratonico si dice in geologia, risalente al pre-protero, insomma alla parte, diciamo, al periodo più antico di vita della Terra, anche se poi la conoscenza è relativa semplicemente alle sole zone emerse. Quindi alcuni dati sul come è fatto sotto si sanno forse da immagini radar ricavate che attraversano la calotta glaciale, ma alcune cose non è proprio veramente un continente misterioso, sepolto com'è da 3.000 metri di ghiaccio compatto. E invece c'è una parte poi occidentale che invece è più articolata, più giovane geologicamente, anche se ed è in qualche modo, se uno togliesse la massa di ghiaccio, sarebbe un arcipelago. Infatti il ghiaccio lì poggia probabilmente sul mare, o comunque raggiunge la terra, ma la raggiunge sott'acqua. Infatti è la zona, quella dell'Atlantico orientale, più diciamo più preoccupante dal punto di vista di una possibile deglaciazione, in quanto non è confinato sulla terraferma, in qualche modo, quel ghiaccio. E giusto qualche dato. Così la comunità scientifica internazionale si è chiesta tanto che cosa potrebbe succedere in futuro. Ci stanno varie proiezioni, anche parecchio preoccupanti, nel senso, uno dice, se tutto il ghiaccio della piattaforma dello scudo, diciamo della calotta orientale, si sciogliesse, il mare salzerebbe di 60 metri, tutto il mare della Terra salzerebbe di 60 metri. In altri casi si parla di qualche metro. In realtà non c'è tanta conoscenza rispetto a questo. Quello che è sicuro è che una recente ricerca pubblicata nel maggio 2021 e reperibile sul sito dell'ESA, mostra che, basata su osservazioni da satellite, mostra che nel complesso c'è stato un aumento negli anni che vanno dal 1994 al 2007 del 65% del tasso di perdita di ghiaccio nelle zone. Utilizzando le informazioni provenienti dai vari satelliti ERTS, Envisat, Cryosat e poi Copernicus, Sentinel-1 e Sentinel-2, che sono i satelliti che sono stati sparati dall'ESA, e si è scoperto che la velocità con cui tutta la Terra ha perso ghiaccio, perché hanno guardato sia i ghiacciai che le calotte, appunto quella antartica e quella groenlandese, se si dice così, della Groenlandia, è aumentato tantissimo. Diciamo che ogni anno si perde ecco, questa è una visualizzazione, un cubo di ghiaccio grosso, alto come l'Everest e largo 10 km per 10 km e alto più dell'Everest, quindi ogni anno si perde questo e la velocità di perdita è in aumento, quindi la conseguenza sarà come proiettata, come nelle proiezioni dell'IPCC che, di cui abbiamo sempre parlato, in realtà sembra che si stiano avverando i peggiori scenari dell'IPCC e la velocità di perdita da queste calotte glaciali è alto. Recentemente mi pare sia stata registrata la più alta temperatura da quando si registrano le temperature in Antartico, la settimana scorsa c'era la notizia sui giornali, quindi anche lì gli effetti del riscaldamento globale in qualche modo si fanno sentire e nessuno sa, nessuno può sapere che cosa potrebbe succedere al cambio di temperatura, a questa corrente circumpolare che garantisce l'isolamento termico del continente, che probabilmente è all'origine, anzi che sicuramente è all'origine della glaciazione che ha portato il ghiaccio alla formazione della calotta glaciale antartica, perché non c'è sempre stata, non è correlata soltanto al fatto che sta al polo sud e che quindi è più freddo perché c'è una minore insolazione, ma in realtà l'Antartide ha raggiunto, e poi parleremo forse di tettonica delle placche, così comunque diciamo che si è trovato il continente, la placca su cui si muove la parte immersa, si è trovato da quelle parti, cioè intorno al polo sud, già 70 milioni di anni fa, più o meno, così. Milione più, milione meno, e invece la calotta si sarebbe formata molto più recentemente, poi a seconda degli articoli che leggi cambia, comunque diciamo che intorno alle Eocene, insomma, quindi una trentina di milioni di anni fa si sarebbe cominciata qua, una volta che l'isolamento anche geografico dell'Antartide ha raggiunto più o meno la posizione, la configurazione attuale, quando si sono ridotti e annullati i ponti continentali, se vogliamo utilizzare un termine desueto, che i ponti che li collegavano all'America del Sud nello specifico, si è formata questa corrente circumpolare che garantisce il suo isolamento termico. A quel punto, anche in poco tempo, pare la temperatura sul continente è precipitata e fino a formarsi una calotta glaciale veramente che non ha uguali. Invece prima dell'Oligocene c'era una, nonostante fosse a quelle latitudini, comunque era vegetato, c'era una fauna, c'era una flora, i pochi affioramenti, si chiamano così, le poche zone in cui non c'è la terra, non c'è il ghiaccio sulla terra, quelle osservazioni consentono di trovare dei fossili e di datare anche il momento in cui è avvenuta la grande glaciazione che ha portato a questo, e che a quanto pare, anche se lì ci sono pure delle controversie, a quanto pare non ha mai mollato, nel senso, forse ci sono state durante i periodi caldi più recenti delle arretramenti, ma nessuno riesce, anzi si pensa che non si è mai annullata la calotta glaciale antartica, quindi il rischio potenziale correlato forse al riscaldamento globale è uno scenario che non si è mai verificato, e quindi si vedrà. Detto questo, così giusto un'infarinatura pure un po' incasinata, anzi scusate per chi ascolta se abbiamo precipitato, abbiamo spedito a sud del sud a parlare, do la parola al comandante Jacopo che attacca con altre confusioni. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti e a tutti. Sì, io non è che aggiungerò troppo su questo, anche perché non sono un esperto, e poi qui in studio ci sono già persone molto più esperte, tra cui il nostro ospite che tra un po' presenterò. Però come si fa con i mappamondi, cioè il mappamondo fisico che tu hai presentato, io mi limiterò un po' a presentare il mappamondo politico, da questo l'aspetto politico, diciamo una breve storia, perché dell'Antartide, del Polo Sud. Uno si potrebbe chiedere, ma di chi è questa Antartide? È tagliata a fette, cioè ogni nazione confinante ha preso uno spicchio di questa Antartide. Beh, possiamo dire subito che mire espansionistiche effettivamente ci sono state nell'arco del Novecento, fino a quando nel 1961 le nazioni confinanti, quelle più vicine, diciamo così, fisicamente al Polo Sud, tra cui l'Argentina, l'Australia, il Cile, poi ovviamente si parla sempre di paesi neocolonialisti, quindi la Francia, la Norvegia, la Nuova Zelanda e soprattutto il Regno Unito, avevano pretese, appunto reclamavano proprio come dire, diritti politici di territorialità sull'Antartide. Però successe questo, che in una conferenza dell'anno geofisico, nella una conferenza di geofisica internazionale, precisamente nel 59, a Washington il 1 dicembre si firmò proprio un trattato, il Trattato Antartico, che servì per mettere un po' pace rispetto a questa contesa internazionale delle nazioni su appropriarsi dell'Antartide, e fu sancito appunto questo trattato che metteva pace, e i firmatari, in cui si diceva che l'Antartide è, diciamo, è di tutti e non è di nessuno, ecco, calmierava un po' queste pretese. Infatti questo trattato è stato firmato, come dicevo, a Washington il 1 dicembre del 59, da 12 stati, che furono il Belgio, il Giappone, l'Unione Sovietica, il Sudafrica, gli Stati Uniti d'America e poi appunto questi altri 7 stati che si contendevano l'Antartide, quindi ed è entrato in vigore nel 1961. Quindi dal 1961 noi possiamo dire che l'Antartide è una regione preservata, dove si possono fare solo studi di natura scientifica, viene tutelata attraverso i principi basilari di questo trattato. I popoli che poi hanno aderito, tra cui anche l'Italia, ovviamente attualmente sono 50 i paesi che hanno aderito a questo trattato, e 27 di questi hanno un potere consuntivo. Cosa vuol dire consuntivo? Che hanno diritto di veto e decidono le politiche, diciamo, economiche e sociali di come gestire l'Antartide, ecco. E come si arriva ad avere questo potere consuntivo? Solo se effettivamente ogni paese, nell'arco della propria storia dal trattato in poi, fa vedere volontà pratica proprio di scopi scientifici, di applicare la ricerca scientifica in Antartide attraverso appunto imprese scientifiche finanziate dai paesi per scopi pacifici. L'Italia è entrato in questo trattato nell'81 e ha avuto potere consuntivo nell'87. Dicevo, sono 50 i paesi. Ovviamente in questo trattato ci sono tantissimi articoli che regolano appunto la vita dell'Antartide, regolano diciamo le diatribe politiche e economiche dei paesi rispetto all'Antartide. Ci sono diverse convenzioni, per esempio c'è una convenzione sulla protezione delle foche, sono stato stipulato la convenzione sulle risorse marine viventi, quindi sono trattati che proteggono appunto l'ecosistema. Ovviamente i principi più importanti sono, per esempio, che è divieto di fare qualsiasi attività di carattere militare e di ogni esperimento nucleare, ovviamente di non utilizzare l'Antartide come discarica. Insomma, questi sono i principali, e proteggere l'ecosistema Antartide. Ora, quindi l'Antartide è un sistema, diciamo da questo punto di vista, molto tutelato. È un sistema vergine su cui l'uomo non ha potuto metterci mano da un punto di vista di industrializzazione, non è inquinato, e appunto da questo punto di vista diventa un luogo privilegiato per le ricerche scientifiche, per capire un po' tutti i meccanismi fisici, geofisici, sull'ecosistema, biofisici, che ci sono, per studiare l'intero pianeta. Quindi le ricerche scientifiche che si sono sviluppate in questi anni, in questi ultimi, diciamo dal trattato in poi, sono le più variegate. Noi adesso con il nostro ospite parleremo di pochi aspetti, di un settore della ricerca scientifica che si fa, ma le ricerche scientifiche sono veramente enormi, dalla fisica dell'atmosfera appunto all'ecologia, come tu accennavi, Lorenzo, quindi per studiare i cambiamenti climatici, alla tettonica, alla geofisica, all'astrofisica, al paleoclima, allo studio dei ghiacci, eccetera eccetera. Quindi tutto questo viene fatto attraverso accordi ben precisi. Ora noi parleremo di in Antartide ci sono diciamo diversi modi per approcciare l'Antartide da un punto di vista di ricerca scientifica, che sono le basi a terra, cioè quindi i ricercatori vanno, ci sono delle basi che sono aperte solo durante l'estate antartica, cioè quindi quando il periodo lo permette, e quindi arrivano tantissimi ricercatori e tecnici che sviluppano e portano avanti appunto esperimenti scientifici di ogni sorta. Poi ci sono basi che stanno aperte tutto l'anno, però si riducono di un numero molto consistente, quindi giusto per la sopravvivenza, il mandare avanti la base e ovviamente quelle attività di ricerca che richiedono una continuità annuale che non si può interrompere, ma fatti di pochi individui. Per quello che riguarda l'Italia, io anche per esperienze lavorative personali, noi in Italia abbiamo come basi, si chiama Mario Zucchelli Station, che si trova appunto sulla costa dell'Antartide, ed è una base che è aperta solo durante l'estate antartica, quindi che si va da dicembre fino a marzo, diciamo il periodo è novembre, dicembre, marzo, fino a marzo, poi chiude perché arriva l'inverno antartico, quindi iniziano a diventare condizioni proibitive. E poi l'Italia partecipa sempre col Piano Nazionale di Ricerca Antartico a un'altra base, però questa è in comune con i francesi, che si chiama Concordia. Questa si trova invece molto più nell'entroterra, non mi ricordo più, ma a migliaia di chilometri dalla costa, e questa per esempio ovviamente durante l'estate antartica si popola di ricercatori di ogni provenienza, soprattutto ovviamente del CNR. Si portano avanti esperimenti, ma d'inverno, nel periodo invernale, rimane 12, ci sono 12, 13, mi pare 13 tra ricercatori, no, neanche ricercatori, proprio tecnici che mandano avanti la base, e ce la dividiamo con i francesi, sono 6 italiani e 7 francesi, sembra un'unità in più i francesi, non si sa, questo non l'ho mai capito, poi se Marco lo sa ce lo spiegherà meglio. Va bene, allora mi è scappato subito il nome, è Marco, però adesso ve lo presento dopo il primo stacco musicale e ci parlerà di quello che è andato a fare in Antartide. Eccoci qua, stavamo chiacchierando e non ci eravamo accorti del rientro in trasmissione, ma siamo stati perfetti. E allora io ridò la parola direttamente al comandante Jacopo, che ci introduce il nostro super ospite. E la canzone che abbiamo sentito, ovviamente non c'era bisogno di presentazione, era Meganoidi, Brucia Ancora, dedicata come tutta la trasmissione al nostro compagnuccio Dorno, che ci resterà sempre nel cuore. Vai comandante. Eccoci, grazie Lorenzo. Allora, come dicevo, le ricerche in Antartide si fanno sia via terra ma anche via mare. Marco, l'ospite di questa sera, l'ha fatta via mare, cioè nel senso che l'Antartide si può studiare anche senza mai toccare la terraferma attraverso appunto navi oceanografiche. Marco Cuffaro è un geofisico, fa ricerca al CNR qui a Roma, ed è stato in nave in Antartide, nella campagna del piano ricerca Antartide tra il 2016 e il 2017. È andato in Antartide con la OGS Explora, che è una nave dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale dell'OGS, appunto. È una nave anche abbastanza grandicella, 72 metri di lunghezza, ho visto, larga 11. Sono stati in nave senza mai toccare terra per 56 giorni e 11 ore, dico 11 ore perché questo è proprio, c'è un rapporto, perché ovviamente tutto quello che ha fatto Marco è tutto, uno lo può anche andare a visitare se è incuriosito, nel rapporto sulla campagna antartica estate australe 2016-2017 lo trovate su internet nel programma di ricerche Antartide, appunto. Appunto è stato 56 giorni e 11 ore in nave e ha percorso, ecco, circa 16.760 chilometri questa nave. Ora, tutto questo tempo, Marco, cosa avete fatto in nave tutto questo tempo? Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. È un onore essere qui a raccontare questa esperienza che per me è stato un privilegio. Infatti partecipare alla 32esima spedizione in Antartide è stato il motivo per me di anche crescita dal punto di vista della ricerca, e ci ha permesso di raggiungere un posto di frontiera, perché l'Antartide è una frontiera sia come posizione geografica sia una frontiera dal punto di vista della ricerca, perché come avete già spiegato prima non è un posto che ancora è stato esplorato completamente. Noi siamo stati in mare e abbiamo navigato per tutto il tempo. Considerate che siamo partiti dall'Australia, da Hobart in Tasmania, e ci abbiamo messo 10 giorni per arrivare al mare di Ross, e successivamente siamo stati impegnati tutto il tempo con 5 progetti di ricerca, e ci siamo alternati nelle ricerche dando una mano agli altri equipaggi scientifici, facendo il lavoro di tutti e aspettando poi il nostro turno per le nostre attività di ricerca personale. Noi abbiamo partecipato a dei bandi competitivi che hanno fornito i finanziamenti necessari per fare questa ricerca, e ci siamo alternati in ricerche anche molto diverse, che però rispetto a quello che è stato detto prima riguardano una disciplina che si pone diciamo delle domande su come funziona il nostro pianeta. Noi ci siamo infatti occupati di geodinamica della Terra solida, e molto più precisamente abbiamo tentato di contribuire alla conoscenza della tettonica delle placche, ovvero abbiamo studiato un posto lungo il trasferimento della nostra nave fino al mare di Ross, dove tre placche litosferiche si incontrano. Ora, cosa sono le placche litosferiche? Sono dei blocchi della Terra che sono in movimento gli uni rispetto agli altri, perché a noi ci sembra che la Terra sia solida, dove poggiamo i piedi, sia ferma, sia stabile, è il nostro punto di riferimento, e invece questa terra molto lentamente si muove, creando quelle che sono le caratteristiche degli effetti della tettonica delle placche, cioè le catene montuose o lo sconvolgimento di grandi deformazioni della superficie del nostro pianeta, che poi genera terremoti ed eruzioni vulcaniche. In questo punto dove noi ci siamo soffermati, tre placche si incontrano e due di queste scorrono una rispetto all'altra senza né avvicinarsi né allontanarsi. È quella che noi chiamiamo una faglia trasforme, una lunga zona di 1200 km. Per fare un esempio, diciamo, è quella che a terra si conosce bene, la faglia trasforme di Sant'Andreas, vicino alle città di Los Angeles, San Francisco, dove insistono dei fortissimi terremoti. Ecco, noi abbiamo cercato di investigare con le nostre ricerche quali sono i meccanismi dei processi di deformazione della tettonica delle placche e quali conseguenze possano generare al fondo del mare nella zona periantartica e antartica. Rispetto a questo, se puoi spiegarlo, quali sono gli strumenti e metodologie che adottate? Perché uno dice ste faglie trasformi si trovano in profondità, no? Sotto al mare, no? Voi passate con sta nave e andate su e giù, ma come si fanno a individuare? Hai ragione, le navi sono equipaggiate con delle strumentazioni proprio alla chiglia e sono sostanzialmente degli ecoscandagli multifascio. Significa che durante la navigazione viene mandato un segnale al fondo del mare che ritorna e ci dà una fotografia in tempo reale di quelle che sono le valli, le montagne, i canyon del fondo. Quindi la nave, stando in una zona particolare, può, facendo ulteriori passaggi, fare una fotografia, si dice una mappatura del fondale, che ci permette di studiare quali sono le principali caratteristiche delle deformazioni. E successivamente si possono utilizzare altri strumenti della nave stessa, come altri ecoscandagli che fanno per esempio delle ecografie del fondale per vedere com'è la deformazione al fondo. Ma la cosa che ci ha interessato di più in questa spedizione è stato misurare il campo magnetico registrato al fondo del mare, quindi delle rocce, che sostanzialmente poi ci danno l'informazione generale sulla velocità e la direzione di queste placche che si muovono in maniera, come diciamo noi, trasforme, cioè l'uno rispetto all'altro. Questo si chiama paleomagnetismo, se non sbaglio, giusto? Sì. Perché si misura col fatto che il campo magnetico terrestre non è sempre stato uguale nella storia della Terra, cioè nel senso che il polo nord non ha sempre indicato il polo nord, ma diciamo si è proprio flippato, cioè ci sono periodicamente si gira, cioè a un certo punto il polo nord diventa polo sud e viceversa. Esattamente. E questo rimane impresso nelle rocce. Esattamente, per il motivo che quando si forma la crosta oceanica, cioè il fondale degli oceani, dovete immaginare che viene eruttato da queste dorsali oceaniche, che sono lunghe catene di vulcani, del materiale fuso che prende subito la direzione della magnetizzazione corrente del campo magnetico dell'epoca. E se poi due placche si muovono le une rispetto all'altra, questa magnetizzazione viene portata lontano, e che è quella che è distribuita poi su tutto il fondale degli oceani. Ed è proprio grazie a questa scoperta negli anni 60, con l'inizio delle esplorazioni oceanografiche, che la teoria di Wegener dei primi 900 della tettonica delle placche è stata finalmente confermata. Eh sì, ne avevamo parlato l'anno scorso, no, forse 2 anni fa, caro comandante, ti ricordi, addirittura con qualche protagonista storico delle prime scoperte. Lo diciamo, Bonatti. Enrico con Bonatti, che ci aveva raccontato in modo addirittura aneddotico tutte le cose, un'altra nave oceanografica di altri tempi con i russi, insomma, tempi quasi piena guerra fredda, così. È interessante, siamo arrivati praticamente a parlare, e io farei una pausa per far rifiatare tutti quanti, siamo arrivati a parlare della dinamica della Terra, è molto complessa. complessa, come avete ascoltato, nel senso ogni angoletto di cui ci ha parlato Marco, ogni cosa che analizzavano o che cercavano di capire sulla nave, in realtà poi apre una quantità di informazioni a cui normalmente uno non, con cui normalmente uno non si confronta, ma che hanno a che fare con la dinamica incredibile del pianeta, e che è anche questa un oggetto enorme, no? Di cui uno non ha contezza normalmente. Uno verifica, ogni tanto c'è un terremoto, ogni tanto c'è appunto sono le zone vulcaniche, e in realtà se uno poi li va a guardare tutti insieme scopre che questi fenomeni, vulcani e terremoti, sono le manifestazioni locali che avvengono soltanto in alcune fasce della Terra, cioè al bordo di queste enormi placche che compongono la parte più esterna della Terra, e che danno l'idea del fatto che queste placche piano piano non sono fisse, come diceva Marco, ma che si muovono. Capirne la dinamica era nei punti più complicati, che sono appunto i punti dove gli angoli della placca australiana toccano quella pacifica e si appoggiano così sopra quella antartica, è capire e cercare di ricostruire l'intera dinamica del pianeta. Quindi, se siete d'accordo, io farei una pausa e poi ritorniamo su questo. Sì, io aggiungerei anche che a Marco dovremmo chiedere anche un po' di curiosità, che penso i radioascoltatori vorranno sapere, cioè come si vive in nave tutto quel tempo, soprattutto l'ambiente che uno trova varcando il 60° parallelo sud, perché non penso sia come fare una crociera. No, certo, infatti partiamo dalla dinamica, dall'art science, come diceva sempre Chiara, così che è sempre più complicata e sempre più ostica, magari pure all'aneddotica, anche qui mica soltanto Bonatti c'ha gli aneddoti da raccontare, c'era pure Marco. No, ovviamente. Thank you. E rieccoci in onda, in diretta con Marco Cuffaro, ricercatore di geofisica del CNR. Appunto, diciamo, è andato in nave. Questa nave 18-20 km all'ora faceva, più o meno la velocità di crociera era quella, quindi 10 giorni per arrivare in Antartide. Ovviamente, oltre al lavoro, uno si chiede, ma tutto questo tempo come si impegna la vita in nave? E soprattutto occorre una preparazione, perché io so pure che non è che basta essere ricercatore per andare in Antartide, ma si viene selezionati, si fanno anche dei corsi. Per esempio, parlaci l'addestramento, ecco, se è così, sì, un vero addestramento, diciamo. Che... Sì, c'è un addestramento di 2 settimane per affrontare quella che poi è la vita in un ambiente estremo. E in questo addestramento, a parte conoscere proprio l'ambiente che si va a frequentare per i 60 giorni successivi, bisogna anche avere nozioni di primo soccorso, bisogna essere in grado di spegnere un incendio, bisogna essere in grado di uscire da un laboratorio in fumo, bisogna essere in grado di salire e scendere da un elicottero o di pilotare un gommone. Questo perché non si sa mai in che tipo di attività o pericolo ci si possa mai trovare. E bisogna pure dire che l'Antartide è talmente grande che gli spostamenti avvengono in elicottero, e quindi familiarizzare con la salita e la discesa da un elicottero in ambiente nevoso è una delle principali attività di preparazione all'Antartide. Poi c'è la parte di nave, ovviamente. In nave noi non siamo impegnati molte volte nella proprio messa a mare degli strumenti. Lì ci sono dei tecnici specializzati della nave che ci aiutano una volta che gli strumenti sono pronti, però alla fine dobbiamo seguire le acquisizioni delle strumentazioni. Il magnetometro, per esempio, è uno strumento che è alto 1,5 metri, si trasporta in 2 persone, è una sorta di siluro che viene filato a 300 metri dalla nave, perché poi non deve risentire della nave stessa, del rumore magnetico della nave stessa. E quindi si prepara in un'officina, e si collegano gli strumenti e poi insieme al personale specializzato si mette a mare lo strumento, si fila e si comincia ad acquisire. Lì bisogna stare 24 ore su 24 a controllare che non ci siano problemi. E la vita in nave è organizzata in turni, seguono anche i turni del ponte, il comandante e i suoi ufficiali si alternano con gli stessi turni, cioè si lavora per 4 ore ogni 8 ore, cioè significa che se io ho il mio turno preferito che va da mezzanotte alle 4, ed è veramente il mio turno preferito, poi posso riposarmi per 8 ore e ritorno all'acquisizione a mezzogiorno. E, detto questo, successivamente poi c'è tempo per cominciare già a guardare i primi dati acquisiti, a elaborarli e a capire anche se il piano di lavoro che si è organizzato a terra può essere modificato proprio in seduta stante. Cioè, delle volte ci siamo accorti che delle zone scelte, per esempio, non erano molto idonee all'acquisizione, e quindi si fanno riunioni con il capo missione, il comandante, il responsabile scientifico propone di cambiare le rotte, si devono rifare tutti i conti e aspettare che il comandante dia il suo benestare a queste nuove acquisizioni. E direi che non ci si annoia mai, insomma, la vita è scandita da questi turni e pertanto, insomma, non si perde mai un momento. Io ho imparato andando in nave che è sempre meglio non perdersi mai i momenti di nave, cioè anche quando non si è in attività è sicuramente la cosa migliore è guardare il lavoro degli altri, cioè imparare come gli altri fanno la loro ricerca, confrontarsi. Una cosa che infatti succede è che ogni pomeriggio c'è un seminario, ognuno racconta della propria attività scientifica, dei risultati ottenuti precedentemente e spiega agli altri perché stiamo andando in un posto così remoto della Terra. Quindi è proprio anche un laboratorio, al di là della ricerca che viene fatta in quel momento lì, è anche un laboratorio di confronto scientifico. Quindi esattamente. Mentre stavamo aspettando la trasmissione, parlavi della quarantena, del fatto che della quarantena prima di un imbarco, non questo qui, e del fatto che hai approfittato, no, per lavorare, per approfondire delle cose. Quindi, nel senso, sono anche momenti di estrema concentrazione. Stai 2 mesi in nave, ti confronti con i tuoi colleghi continuamente, e quindi, diciamo, vivi la ricerca scientifica. Se vuoi, è quasi un'esperienza artistica. La ricerca scientifica è sicuramente un'esperienza artistica, come dici tu, e soprattutto basata sul confronto di come gli altri vedono la ricerca, perché noi siamo abituati a pensare che il nostro punto di vista sia il migliore come ricercatori. Invece delle volte è possibile anche cambiarlo, perché un collega ha approcciato un esercizio in una maniera che tu non avresti mai fatto e ha imparato una cosa nuova, insomma. Quindi sicuramente un ambiente confinato come quello della nave, dove si sta a pranzo tutti insieme, a cena tutti insieme, sempre allo stesso orario, è sicuramente il momento in cui ci si può confrontare. No, per quello parlavo di esperienza artistica, che un pittore, no, caro comandante, come tu sei comandante, non è che lo dipendo, non è che lo interpreti, lo sei ormai. È un'esperienza, no, è totale, totalizzante, no, uno è, in quel caso lì, è la ricerca che fa, anche perché dove vai? Cioè, nel senso, devo fare il giro a prua, a poppa, oppure sul tapirulan, ci si può allenare, sì. Ci si può allenare, però ecco, però poi sei concentrato su quella cosa lì. E questo ti dà pure la dimensione, per collegarci al discorso che facevamo mentre sentivamo la musica, anche la dimensione della quantità dell'importanza della ricerca scientifica per la ricerca scientifica, nel senso, non è una ricerca, è una ricerca finalizzata ovviamente alla scoperta scientifica, ma non è finalizzata alla scoperta di risorse, o comunque non è direttamente connessa al capitale, al commercio, all'attività industriale, imprenditoriale, quello nel caso del mare, all'attività di sfruttamento delle risorse, quella che ti viene in mente di più. È una ricerca finalizzata in questo caso qui a scoprire delle cose complicatissime. Abbiamo cercato così, con 4 parole, di spiegare, che però non hanno direttamente una ci incontriamo sempre, no, Marco, in questa trasmissione qua ci siamo incontrati tante volte, le andiamo proprio a capare, quindi queste le andiamo proprio a cercare col lanternino, queste esperienze di ricerca scientifica non direttamente, anzi neanche quasi lontanamente correlabili alla ricerca poi finalizzata al commercio, all'industria o allo sfruttamento delle risorse, ma una ricerca pura, se vogliamo, no? La scoperta dei margini di placca allo scopo di capire meglio la dinamica del pianeta Terra. Hai perfettamente ragione. Dal mio punto di vista, l'opportunità di fare ricerca in Antartide è l'opportunità di fare ricerca senza un secondo fine, cioè fare la ricerca solo per la conoscenza. Dal mio proprio personalissimo punto di vista come ricercatore, la possibilità di andare in Antartide per studiare la tettonica delle placche è un'opportunità unica, perché quello è un luogo ancora remoto che può darci delle informazioni che ci potranno aiutare a comprendere perché la Terra si muove in questa maniera, perché noi siamo in grado adesso di descriverla molto bene, la sua dinamica e la sua cinematica, ma non abbiamo ancora capito perché la Terra si muove in questo modo. Quindi cerchiamo di rispondere in quel luogo di frontiera a una domanda di frontiera, cioè qual è il motivo perché noi ci troviamo su un pianeta così dinamico, e questo è il lavoro del prossimo futuro. Quello come obiettivo, ma poi il territorio è il territorio in cui non ci sono, la competizione è soltanto una competizione intellettuale, no? Nel senso che in periodi come questo, infatti, per noi tornare a parlare di scienza qui, dopo che abbiamo parlato di conflitti collegati al clima, di conflitti attuali in Ucraina, insomma, di pandemia, e di la trasmissione che doveva essere all'inizio una trasmissione prevalente prettamente di sulla ricerca scientifica, spesso inevitabilmente è stata trasportata verso territori che angoscianti, se vuoi, dove la competizione, quella fisica, anche nel caso della guerra, è la ricerca scientifica. E tornare oggi a parlare di scienza, anche dedicarla a Adorno, questo è quasi l'abbeverarsi a una sorgente, no? Dico, e andare a guardare come, appunto, tu dici, durante il pranzo oppure il pomeriggio facciamo i seminari in cui ognuno cresce, ognuno cambia idea, e nei team internazionali ti capita magari di averci a che fare con come al CERN, come ci hanno raccontato tanti, ti capita di averci a che fare con qualcuno che non sarebbe propriamente tuo collega, tuo corrispettivo, nel caso in cui stessi cercando di accaparrarti, non lo so, un giacimento inesplorato di gas, ma anzi ci sarebbe tutta la competizione finalizzata. La scienza permette questo dialogo, l'abbiamo detto 200 volte, e il trattato di cui ci ha parlato il comandante è inattaccabile per il momento, forse perché gli interessi continuano a essere bassi, a parte quelli scientifici. Sono territori di pace, no? di connessione massima tra le persone. Hai proprio ragione. Aggiungendo un punto a quello che dici, vorrei anche segnalare che nel caso in cui ci siano ricercatori di diverse nazioni che si occupano dello stesso luogo, per esempio noi facciamo la stessa ricerca nello stesso posto con dei ricercatori della Corea del Sud, abbiamo avuto la possibilità, invece di arrivare per primi su quei posti o per secondi, insomma di accaparrarci prima i fondi per fare delle esplorazioni, abbiamo avuto l'opportunità invece di coordinare la ricerca, ovvero di rispettare il principio della condivisione dei dati, e cioè le aree esplorate da loro sono state messe in condivisione con le nostre, e i prossimi programmi futuri di esplorazione sono state concordate in modo tale da massimizzare i passaggi di acquisizione dei dati in quelle zone dove è molto difficile andare. E una cosa che stiamo facendo proprio in questo momento, durante la 37esima spedizione in Antartide da parte dell'Italia, è di usufruire pure dei passaggi, cioè fare delle acquisizioni durante i trasferimenti delle navi, per non perdere nemmeno un secondo di tempo nave. Questo significa che delle volte noi partivamo dalla Nuova Zelanda o dall'Australia per andare in Antartide senza gli strumenti accesi, e invece abbiamo deciso di ottimizzare i passaggi di tutte le navi, perché i passaggi vengano fatti uno a fianco all'altro, e con questi ecoscandagli in 10 anni noi abbiamo potuto registrare una grandissima porzione di dati al fondo del mare per fare degli avanzamenti della conoscenza. Sì, io volevo, per concludere questo tipo di riflessione, io penso che l'Antartide, le ricerche che fa Marco, sono paradigmatiche da questo punto di vista, paradigmatiche nel senso che sono proprio, la scienza è un simbolo di pace. La scienza significa dialogo tra i popoli e condivisione e noi abbiamo iniziato sempre tenendo questa linea, no? Questo tipo di analisi, cercando di, appunto, come dicevi tu, Lorenzo, di fare ogni volta andare a cercare un po' con il lanternino queste esperienze, che non ne sono tante poi alla fine a livello internazionale, purtroppo. E poi alla fine ci siamo ritrovati con la pandemia a fare proprio questi paragoni, no? Abbiamo fatto diversi paragoni con i vaccini, con tutta la questione che era nata sulla proprietà intellettuale dei vaccini, e vedete come cozza proprio, come stride. Ora non si è risolta. Che non si è risolta, poi alla fine parliamoci chiaro, adesso è passata in secondo piano con la guerra in Ucraina, ma se vogliamo fare pure il paragone con la guerra in Ucraina, senza entrare in dettaglio sulle opinioni, sull'analisi di questa guerra, però una cosa si può dire: all'indomani dell'attacco in Ucraina, per esempio, tutte le attività di ricerca che erano fatte a livello internazionale, i ponti con i ricercatori russi, con i progetti di ricerca che si facevano, sono stati bloccati, tagliati. Ora non voglio entrare nel merito dei vari progetti, però ci sono anche progetti di ricerca che non avevano nessuno.